Anima Jazz, un programma di jazz tradizionale e contemporaneo ideato e condotto per voi in studio da Bruno Pollacci. Buonasera, buonasera a tutte le mie ascoltatrici e i miei ascoltatori, un grande abbraccio da Bruno Pollacci. Siete all'ascolto di Anima Jazz numero 671. Una serata, questa, molto particolare per la musica così diversa che vi farò ascoltare, musiche che ci rappresentano dal punto di vista nazionale, musiche che arrivano d'oltreoceano con connotazioni particolari, musiche che fanno sentire un jazz che è aperto con il suo grande abbraccio verso altre armonie, verso altre ambientazioni musicali e quindi con fusioni particolari. Sicuramente una serata particolare, molto stimolante, credo. Lo è per me che ve la propongo, spero che lo sia anche per voi nell'accettazione di una apertura musicale, quindi di un ascolto senza barriere. Cominciamo subito con qualcosa che ci appartiene. Il gruppo è il gruppo vocale di Tamandua, che da anni io ascolto con grande interesse, con grande stima. Ho avuto l'occasione di conoscerli, di ascoltarli dal vivo e li ho sempre seguiti attraverso le loro prime registrazioni non ufficiali, i famosi demo, e poi con le loro incisioni discografiche ufficiali. Siamo alla seconda pubblicazione discografica per i Tamandua dal punto di vista proprio ufficiale, con la Dry Castle, è uscito da poco Olio di Cacao. Olio di Cacao che mette in evidenza le fusioni tra la musica che amano i Tamandua, cioè la musica brasiliana, e la terra da cui provengono, la Toscana. L'olio di oliva, il cacao, questi due elementi che si fondono nel CD che vi farò ascoltare stasera. Una fusione che mette in evidenza non solo l'amore per la musica brasiliana, ma anche un rispetto e un amore per la propria tradizione, per il proprio spessore culturale e per il background che noi possiamo vantare non solo per la canzone popolare ma anche per la musica classica, per tutto quello che rappresenta la cultura musicale nazionale ed europea. Uno dei simboli della nostra musica folk popolare tradizionale è sicuramente Roma non fa la stupida stasera, che stasera sentiremo proprio in una versione così mixata dall'amore per il Brasile. E quindi ascoltiamoci la versione dei Tamandua, che sono Pino Arborea alla chitarra e alla voce, e il quale ha curato anche tutti gli arrangiamenti di questo bel CD, Anna Maria Giglitto, voce e percussioni, Elena Guarducci, sempre voce e percussioni, e Maria Palmerini, anche lei voce e percussioni. Quindi buon ascolto con i Tamandua. Stasera stupida, dammi una mano a fare di te sì, dammi una mano a fare di te sì, scegli tutte le stelle, la, la, la, più brillarelle che c'hai, più friccico di luna, tutto per noi, fai e senti che quasi primavera, sì, primavera, mannali meglio grilli per fa cri cri, presta merponentino, più malandrino che c'hai, lo mareggio e mermoccolo stasera. Roma non fa la stupida stasera, dammi una mano a fare di te, no, dammi una mano a farmi di te. che c'hai, nascondeme la luna, sì, non so guai. Fammi scordare che è quasi primavera, tienmi la mano in testa per dire no. Sforza quel venticello, stuzzicarello che c'hai, Roma non fa la stupida stasera. Fa cricri, prestami il ponentino, più malandrino che c'hai, Roma regge mer moccolo stasera. Roma non fa la stupida stasera, dammi una mano a fare di te. C'hai, nascondeme la luna, sì, non so guai. Fammi scordare che è quasi primavera, tienmi una mano in testa e di te no. Sforza quel venticello, carello che c'hai, Roma non fa la stupida stasera, Roma non fa la stupida stasera, Roma non fa la stupida stasera, da ba du yu da da du da ba ya yu da ba. Bene, questa era la simpatica versione di Roma non fa la stupida stasera che ci ha offerto il gruppo di Tamandua. Gruppo di Tamandua formato da Pino Arborea, la chitarra, la voce e gli arrangiamenti, Anna Maria Giglitto, Elena Guarducci e Maria Palmerini, tutte alla voce e percussioni. Un gruppo che sicuramente sa interpretare con grande capacità, con grande proprietà di linguaggio, con grande sensibilità, con grande amore la musica brasiliana, ma che in questo caso ha saputo anche offrire un omaggio alla tradizione popolare del canto italiano anche con questa Roma non fa la stupida stasera, interpretata in modo così molto brasileiro. E il CD è molto gradevole, ci sono delle interpretazioni di pezzi molto conosciuti della tradizione brasiliana, veramente stimolanti, interessanti, ma ci sono anche, appunto, a proposito di rispetto e amore anche per la tradizione della nostra canzone, interpretazioni appunto sotto forma brasileira, sotto forma di bossa nova e di samba, di pezzi che appartengono alla tradizione italiana. Veramente molto interessante questo mix, il titolo è proprio esplicativo: Olio di cacao, questa fusione tra la terra dei Tamandua, la Toscana, la mia terra, dove l'olio di oliva sicuramente fa parte della nostra grande tradizione, e il cacao, che fa parte della tradizione brasileira. Insieme un mix micidiale veramente straordinario. Lasciamo i Tamandua e andiamoci ad ascoltare un grande personaggio del jazz internazionale, Si tratta del bassista Gary Peacock, un mito nel mondo jazzistico internazionale, che per la ECM ha realizzato da poco un disco intitolato Now This, e l'ha fatto in trio con Mark Copeland al pianoforte e Joey Baron alla batteria, musicisti di grandissimo prestigio che accompagnano Gary Peacock in questa avventura con grande complicità e grande sensibilità. Stasera ci potremo ascoltare una composizione originale intitolata Vignette. Buon ascolto con il Gary Peacock Trio. Thank you. Questa era la musica del grande Gary Peacock, un musicista che nonostante abbia già un'età importante manifesta sempre una freschezza nel suo tocco, una creatività e una fantasia veramente straordinaria, un contrabbassista di primissimo ordine. Avete sentito la sua performance insieme al suo trio che dimostra quanto ancora sia vivace la sua, il suo tocco, la sua interpretazione. Un pezzo questo chiaramente molto morbido, molto sensibile, molto poetico, ma anche ricco di grandi tensioni, piuttosto ombroso, piuttosto come dire tempestoso all'interno di una sorta di calma, di quelle che però preludono a qualcosa che deve arrivare o comunque a uno stato d'animo in fermento. Veramente un bel pezzo e il pezzo che ci siamo ascoltati era intitolato Vignette, era tratto dal CD Nowadays pubblicato dalla ECM. Ricordo il trio: Gary Peacock, chiaramente leader del gruppo, al contrabbasso, Mark Copeland al pianoforte e Joy Baron alla batteria. Adesso andiamo avanti. Andiamo avanti con una. Vi avevo subito detto all'inizio che sarebbe stata una serata di grandi diversità, proprio per far comprendere quanto il jazz sia capace di abbracciare anche culture diverse, ambientazioni musicali diverse e riuscire a filtrare, a proporre delle sonorità molto diverse tra loro, ma molto interessanti e stimolanti. E per offrire occasioni di ascolto diversificato ad un pubblico che, almeno quello che mi segue da tempo, ormai è abituato e ama il fatto di poter godere di sonorità diverse e quindi di spaziare pur all'interno del jazz, però in questo ambito molto largo, ampio, che il jazz offre. E adesso ci andiamo ad ascoltare una bella registrazione del 1974. La Cuneiform Records quest'anno ha pubblicato un CD in omaggio ai grandi Soft Machine e ha recuperato una registrazione live avvenuta proprio in Svizzera durante uno dei festival più interessanti del momento, e il CD è intitolato proprio Switzerland 1974. La formazione dell'occasione era arricchita da uno straordinario special guest che era il chitarrista Alan Holdsworth, che è stato dei Nucleus e di altri gruppi molto importanti. La formazione di base dei Soft Machine di quel momento: Mike Rutledge alle tastiere, Carl Jenkins al sax, Roy Babington al basso e John Marshall alla batteria. Buon ascolto quindi con i Soft Machine, che ci faranno ascoltare in live Land of the Bag Snake. Thank you. Bene, questi erano i grandi, mitici Soft Machine, veramente un gruppo straordinario, uno dei più interessanti e validi gruppi che portarono agli inizi degli anni 70 alla ribalta la fusione tra jazz e rock, questo jazz rock che aveva avuto tra i più grandi esponenti ed originatori il grande Miles Davis, che nel 68-69 cominciò queste fusioni, iniziò questa sperimentazione, e nei primi anni 70 si diffuse velocemente e molti gruppi cominciarono a far proprio questo linguaggio, ad ampliarlo, a personalizzarlo, a trovarne dei colori personali. Anche qui in Italia ci furono gruppi come il Perigeo, gli Area, tanto per citarne un paio, ma tanti altri, insomma, che iniziarono le ricerche all'interno del jazz rock, del progressive rock, che era similare al jazz rock. Ecco, quindi i Soft Machine sono tra i gruppi storici più importanti di questo periodo e di questa ricerca musicale. Un bellissimo esempio ne è questa registrazione live mantenuta pulita, nella quale si sente intanto l'ospite straordinario Alan Holdsworth alla chitarra, che fa una performance di grandissimo livello, di grande effetto, e poi la meraviglia di questo quartetto formato da Mike Rutledge alle tastiere, Carl Jenkins al sax, Roy Babington al basso e John Marshall alla batteria, che non solo sostengono gli assoli di Alan Holdsworth ma offrono delle performance personali sempre di grande effetto. Il pezzo che ci siamo ascoltati era intitolato Land of the Bag Snake, tratto da questo CD pubblicato dalla Cuneiform Records, Switzerland, 1974, appunto una registrazione raccolta da quella performance nel Festival Jazz del 1974. Soft Machine. E adesso andiamo avanti con un progetto discografico che molto probabilmente potrà essere terminato intorno a settembre-ottobre, comunque in autunno sicuramente si pensa, e a cura del Lady Zeno Jazz Quartet, una formazione molto interessante che ha fatto una pubblicazione discografica originale improntata a interpretare le emozioni vissute con la coscienza di Zeno. Da questo libro è nato questo progetto discografico, non è appunto ancora stato terminato, in esclusiva, e vi faccio ascoltare un pezzo che è un'anticipazione di questo bel CD, interessante CD, e vi faccio ascoltare La morte di Napoleone, parte 1. I testi sono di Monica Genesio, che è la vocalist del gruppo, leader e vocalist del gruppo, e Emanuele Francesconi, che è il pianista del gruppo. Si tratta di un pezzo, quello che vi faccio ascoltare, appunto Alla morte di Napoleone, parte 1, che è tratto dal quinto capitolo del libro La storia del mio matrimonio, e parla un po' delle curiosità dei personaggi che compongono la storia di questo libro, la famiglia, la futura moglie di Zeno e tutto l'entourage. Sentiamo l'interpretazione che ci offre il gruppo Lady Zeno Jazz Quartet, gruppo che è formato, come ho appena detto, da Monica Genesio alla voce, Emanuele Francesconi al pianoforte, Michele Anelli al contrabbasso e Chicco Accornero alla batteria. Buon ascolto. La mia vita non sa sapeva fornire che una sola nota abbastanza alta, orribilmente tediosa e senza alcuna variazione. L'idea di sposarmi mi è venuta per la stanchezza di emettere e sentire quell'unica nota. Sposarmi mi è venuta per la stanchezza di emettere e sentire quell'unica nota. Mm. così ferito nell'orgoglio e nella stima. Sono stato allontanato da quell'amore che ne sono certo avrebbe migliorato la mia vita. E come Napoleone iniziavo il mio esilio, il 5 maggio la data della sua morte. Bene, questa era la musica con i testi particolari del leader del gruppo, del Lady Zeno Jazz Quartet. Si tratta di un pezzo veramente molto interessante intitolato La morte di Napoleone parte 1, come ripeto, testi di Monica Genesio, la vocalista del gruppo, e le musiche di Emanuele Francesconi, pianista della formazione. Lady Zeno Jazz Quartet, che è formato da Monica Genesio alla voce, Emanuele Francesconi al pianoforte, Michele Anelli al contrabbasso, Chicco Accornero alla batteria, ci ha fornito una versione molto interessante di questa La morte di Napoleone parte 1, con una capacità narrativa molto particolare e coinvolgente, sicuramente supportata da una musica varia, gradevole, interessante, a volte anche molto torrentizia a proposito dell'assolo di Emanuele Francesconi, ma sempre bilanciata con momenti di estrema poesia, di estrema delicatezza che accompagnano i versi, i testi di Monica Genesio, la compositrice dei testi, che ha fornito un supporto meraviglioso di narrazione fuso con la musica, che trovo originale, interessante e gradevolissima. Un progetto appunto dedicato a Zeno, dedicato a questo romanzo, a questo libro, dalle caratteristiche molto particolari che ancora oggi coinvolgono il nostro quotidiano per l'ampiezza degli argomenti trattati. Lady Zeno Jazz Quartet sarà anche, attraverso la voce di Monica Genesio, selezionato per il Dubidubidù 2015, l'undicesimo festival radiofonico delle voci jazz italiane, quindi avremo occasione di riascoltarla nel Festival delle Voci Jazz, che partirà ad ottobre e arriverà a gennaio con cadenza settimanale. Ogni settimana saranno presentati circa 10 artisti selezionati durante l'anno attraverso i CD che ci pervengono, e quindi una selezione delle migliori voci jazz nazionali, sia tra quelle più sconosciute, ancora un po' nell'ombra, ma validissime, ricche di talenti, e insieme a quelle invece già storicizzate, più conosciute. Un festival che viene ascoltato dagli stessi personaggi più importanti dell'ambiente, dai discografici agli organizzatori di festival, ai proprietari di jazz club, che ogni anno aspettano questo appuntamento per scoprire nuovi talenti del jazz vocale nazionale. In più gli ascolti dall'estero, che rimangono sempre più sorpresi dalla grande qualità di voci che l'Italia può offrire in ambito jazz. McNulty. Lasciamo Lady Zeno Jazz Quartet e torniamo all'estero per ascoltarci un particolarissimo gruppo che si chiama Ligro. Hanno realizzato per la Monjun Record un bel CD molto particolare intitolato Dictionary, dal quale noi ci potremo ascoltare Bleaker 4. Il gruppo è formato da Agam Hamza alla chitarra, Adi Dharmawan al basso e Gusty Handy alla batteria. Buon ascolto con il Ligro. Bene, questi erano I Ligro, un pezzo lunghissimo di circa 15 minuti. Dal CD Dictionary ci hanno fatto ascoltare Bleaker Four. Si tratta di un trio formato da Agam Hamza alla chitarra, Adi Dharmawan al basso e Justy Handy alla batteria. Un interessantissimo gruppo scoperto dalla Moonjoon Records, che da anni batte tutto l'Oriente alla ricerca di gruppi, specialmente in ambito jazz rock, veramente molto interessanti, e riesce a proporre delle formazioni sconosciute ai più, con delle grandi qualità musicali. Noi ci siamo ascoltati Bleaker Four, una loro composizione originale. Il CD dei Ligro è intitolato Dictionary, ripeto ancora una volta, pubblicato dalla Moonjoon Records. Bene, e adesso siamo arrivati all'ultimo pezzo della serata. Si tratta di una cantante, Chris McNulty, che ha realizzato un CD intitolato Eternal, e l'ha fatto insieme a John Di Martino al pianoforte, Ugonna Okeguo al basso e Gregory Hutchinson alla batteria. Il pezzo che vi propongo stasera è Where is Love. Buon ascolto quindi con Chris McNulty. Is love? Does it fall from skies above? Is it underneath the willow tree that I've been dreaming of? Is he who I close my eyes to see? Will I ever know? Oh, that sweet love that's meant for us. Travel far and wide till I am beside that someone who I can mean something to. Love. close my eyes to see. Will I ever know how that sweet love that's meant for all. Questa era la voce di Chris McNulty, che ci ha fatto ascoltare la sua interpretazione di Where is Love, insieme a John DiMartino al pianoforte, Ugon Okeguo al basso e Gregory Hutchinson alla batteria, dal CD Eternal. Chris McNulty, una cantante veramente di grande esperienza, con una notevole capacità interpretativa molto dolce e sensibile, che chiude il nostro programma in bellezza. L'appuntamento è come sempre a giovedì prossimo. Ciao ciao a tutti da Bruno Pollacci e da Anima Jazz.